Tra poco ci andremo in collegamento con una compagna che è stata al campo lesbico di Agape, che è finito ieri e che ci racconterà un po' com'è andata. Insomma, ne abbiamo parlato in un'altra agenda, l'abbiamo presentato, adesso il campo si è svolto e quindi vediamo com'è andata e lo raccontiamo un po'. Come vi abbiamo annunciato, per parlare del 13° campo lesbico di Agape, che si è svolto a partire dal 17 fino a ieri, rifigurazioni corporee, corpo, spazio, sessualità, il tema di quest'anno, ma abbiamo una voce molto nota da questi microfoni che c'era e che ce lo racconterà. Pronto? Pronto, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, com'è andata? Allora, è andata molto bene. Già dall'inizio, dopo 2 settimane dall'apertura delle iscrizioni, avevamo fatto il pienone, quindi già, insomma, prometteva bene. E è stato elaborato un campo molto intenso, devo dire molto partecipato, e non so, i riscontri sono stati positivi. Sicuramente è un campo in divenire, ma insomma c'era veramente una bellissima partecipazione, una bellissima energia. Ci vuoi raccontare un po', insomma, gli incontri, gli workshop? Sì, certamente. Allora, innanzitutto, per quel che riguarda lo specifico del tema del campo, si sono fatti 2 giorni. Il primo giorno a titolo Fatti la tua tappa, un percorso in 4 parti sul tema del corpo, dalla conoscenza del corpo, cioè dalla percezione del corpo in sé, alla masturbazione, al modo in cui il corpo lesbico si manifesta nell'ambiente, all'interazione, diciamo, nello spazio sociale. Quindi queste 4 parti sono stati fatti dei gruppi, insomma, che hanno seguito una sorta di percorso. E il giorno dopo, a partire dal confronto con una serie di immagini, abbiamo riparlato, diciamo, dei percorsi precedenti, per cui siamo partite dalla produzione di opere di artiste lesbiche per dare un suggerimento, uno stimolo ulteriore, no? Usando l'immagine, e sulla base di queste immagini abbiamo rielaborato i contenuti dei giorni precedenti. Quindi questo, diciamo, la parte più attinente al tema. Bisogna dire però che anche i laboratori erano piuttosto sul tema, direi, anzi, da questo punto di vista è stato bello perché c'era una certa coerenza, per cui, non so, ne parlo brevemente? Sì, vai pure. Allora, dunque c'era lo yoga, con il tema del laboratorio era Con il corpo capisco, a cura di Patrizia Ottone. Poi, per quel che riguarda la fotografia creativa, curata da Maria Lorea, abbiamo avuto Impressioni corporee. Mila Morandi Maiorelli ha curato il laboratorio di Tango Queer, Corpi di donne nella relazione, il titolo. Poi Cristina Falco ha parlato della bicicletta come cura di sé, dell'ambiente, del mezzo, eccetera. Maya Pedullà ha tenuto un seguitissimo laboratorio di sex toys e altri giochi. E infine, a cura di Lucia Leonardi e Chiara Martucci, c'era un laboratorio più di tipo esperienziale e, diciamo, analitico su questioni aperte come il lesbismo, il biolesbismo, la relazione lesbica, insomma, varie cose. Senti, leggo dal programma una cosa che mi incuriosisce. Uno dei temi di quest'ultimo workshop che hai citato, qua dice lesbica pro choice con il punto interrogativo, ci puoi dire che cos'è? Allora, io premetto subito che non ero presente al laboratorio, però dunque il tema era essenzialmente sul percepirsi, sullo scoprirsi, il percepirsi e il viversi lesbica. Ho capito. Senti, volevo farti una domanda, un po' ci hai già risposto, cioè su quali sono stati tra questi workshop, insomma, le tematiche che hanno interessato di più le partecipanti, e mi sembra che tu abbia già risposto i sex toys. No, quello sì, seguitissimo. No, in realtà devo dire che, anzi, abbiamo sperimentato quest'anno una nuova formula: anziché fare 3 giorni su uno stesso laboratorio, abbiamo pensato ad una scansione in 2 giorni e 1 giorno. E, pronto? Sì, sì, siamo qua, ti sentiamo. Ah, chiedo scusa, non sentivo. Quindi un laboratorio in 2 giorni e poi una sorta di pillola in 1 giorno, in modo da dare la possibilità alle partecipanti di sperimentare più cose. E quindi c'è stato un grandissimo rimescolamento, persone che hanno potuto sperimentare veramente le cose più all'opposto, e credo che sia stato con ulteriori aggiustamenti, penso che sia stata una buona cosa, perché almeno si è offerta la possibilità proprio di sperimentare cose diverse. Alcune poi hanno avuto una restituzione, come al momento della festa finale, ad esempio il laboratorio fotografico, oppure le ragazze del laboratorio di tango, che hanno aperto le danze insomma, con ciò che avevano sperimentato. No, volevo soltanto dire, a proposito c'era una mostra fotografica molto, molto interessante, devo dire, di Francesca Bettera, sposa me stessa, e poi fra le altre cose che abbiamo avuto, Michela Micamale, con il suo licenziamento poetico, e le Badole, che hanno presentato la serie Relazioni a Catena, e poi le DJ session con Medin la sera. È stato piuttosto denso, sì, devo dire. Artiste che insomma conosciamo anche da questi microfoni. No, assolutamente, ho dimenticato, chiedo scusa. Poi c'era naturalmente la Striscia Quotidiana di filmati a cura del Sontra Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival. E segnalo fra le altre cose, diciamo, offerte alle partecipanti, il bellissimo documentario su Audre Lorde. Sì, quindi insomma anche le serate erano molto dense, di proiezioni, sì. Teatro e poi le danze, insomma. Sì. Immagino che tu sia stanca, visto che è finito giusto ieri sera. Beh, diciamo che normalmente non si dorme, diciamo, questa è la base, quindi però sì, si torna stanchi fisicamente forse, però veramente cariche di nuove cose, di idee, di spunti, di conoscenze. No, assolutamente, sono molto contenta. Senti, bello. Ma si è già detto qualche parola sul 2015? No, non ancora. Questa è una cosa che poi nell'incontro di valutazione post campo della staff, insomma, vedremo. Senti, ci vuoi raccontare se c'è stato qualcosa che non ti aspettavi? In che senso? Che ne so, discussioni che non erano previste? No, assolutamente no. Quest'anno il tasso di conflittualità è stato molto basso. Le uniche cose che sono rimaste a me, che siano arrivate, era magari donne che volevano fare ancora più cose nei laboratori, ma non so quando avrebbero potuto farle, francamente. No, non ci sono state alcun tipo di, da questo punto di vista, di tensioni, no, assolutamente no. Beh, insomma, non intendevo solo negative, ovviamente, a volte partono anche, come dire, così, percorsi, idee, ma probabilmente il campo era così denso e intenso che non c'era nemmeno il tempo per provare, cioè per sperimentarlo tutto, insomma, ci voleva molta concentrazione, molta partecipazione. Sì, ti dirò, abbiamo poi cercato di offrire alle presenti anche la possibilità di formare una sorta di, era un'iniziativa molto carina, era una sorta di muro disegnato graficamente su una parete, diviso per giorni, e su ogni mattone di questo muro le partecipanti potevano scrivere sensazioni, idee, proposte, eccetera. Per cui abbiamo creato insieme questa sorta di diario quotidiano collettivo del campo, che poi valuteremo ovviamente in fase di preparazione del prossimo campo, perché sicuramente ci sono degli spunti e dei suggerimenti. Vogliamo fare un laboratorio di teatro, vogliamo il caffè a colazione, perché non c'era evidentemente il caffè a colazione, l'avete fatto, cioè non dorme la notte e poi manca pure la caffeina, si prende a parte. E niente, insomma, noi ti ringraziamo per questo intervento e ti aspettiamo da questo lato. Grazie dei microfoni. A voi, la staff in coro vi saluta tutte quante, saluta le amiche del Martedì Femminista, l'articolo successivo. E noi vi salutiamo. Ciao, grazie. Grazie, ciao ciao.